Economia in Europa. In collaborazione con Euronet. Il dibattito sull'aumento del Fondo Salva Stati, ISM, che sostituirà l'IFSF, sarà operativo da luglio. Gli interventi al World Economic Forum di Davos, le decisioni in arrivo dalla riunione del Consiglio europeo di Bruxelles sui firewall e sul fiscal compact. Sono questi i principali argomenti al centro della cronaca economico-finanziaria europea di questa puntata di Economia in Europa. Resta al centro dell'attenzione in Europa il dibattito sul Fondo Salva Stati, ISM, che sostituirà l'IFSF e sarà operativo da luglio. Dall'Eurogruppo della scorsa settimana è arrivata un'intesa sul testo del fondo, che attualmente è dotato di 500 miliardi di euro, ma resta ancora da decidere l'eventuale aumento. A mostrarsi contrario è soprattutto il governo tedesco. Il fondo ISM avrà 500 miliardi di euro a disposizione. Questo è stato deciso a dicembre e non vi è alcuna determinazione per cui si possa pensare che a marzo, automaticamente, vi sarà un rafforzamento del fondo come invece si presume. Lo ha detto mercoledì 25 gennaio il portavoce del governo tedesco, Georg Streiter, a Berlino, nel corso di una conferenza stampa. E anche il premier italiano, Mario Monti, intervenendo al Senato sulla politica europea del governo, è tornato a parlare della posizione italiana sul tema del firewall. La posizione dell'Italia sui firewall è chiara, ha detto Monti. Bisogna dotare il Fondo europeo di salvaguardia finanziaria e il futuro fondo di stabilità di risorse adeguate, di una governance umana e non sovrumana e non circondata da vincoli e cavilli. Sentiamolo. Sull'altro aspetto, quello degli strumenti di stabilizzazione, di firewalls, la posizione italiana è chiara. È necessario dotare il Fondo europeo di salvataggio finanziario e il futuro Fondo europeo di stabilità di risorse adeguate, di un appropriato coordinamento reciproco nel senso dell'addizionalità delle risorse, cioè risorse che non saranno state utilizzate quando il fondo di salvataggio finanziario si trasformerà nel fondo europeo di stabilità, vengano portate a costituire parte della dotazione del nuovo fondo. E che la governance del fondo sia umana e non sovraumana nella sua articolazione, quindi possa effettivamente funzionare e non essere circondata da tali vincoli e cavilli da di fatto non poter assistere in caso di necessità. I contorni per una via d'uscita dalla crisi cominciano a prendere forma, ha detto inoltre Monti nel corso del suo intervento al Senato, spiegando che siamo di fronte ad un quadro in evoluzione. Anche Angela Merkel, ha sottolineato Monti, ha espresso il suo apprezzamento per alcune scelte della politica italiana. Sentiamolo sempre dall'intervento di mercoledì 25 gennaio. Ieri la cancelliera Merkel ha espresso apprezzamento per alcune scelte del allora presidente del Consiglio Berlusconi, e anche per la scelta attuale del partito di cui il presidente Berlusconi è presidente di sostenere gli sforzi di questo governo, come in passato capi di Stato e di governo europei hanno pubblicamente condiviso l'operato degli esecutivi italiani. In Europa l'Italia può e deve presentarsi con la dignità che le spetta, nella continuità dello Stato, che è un bene di tutti e di ciascuna forza politica. Sempre mercoledì 25 gennaio ha preso il via a Davos il World Economic Forum, giunto alla sua 42esima edizione, intitolato La grande trasformazione da riforma a nuovi modelli. Fra mercoledì e domenica, nella località svizzera, sono arrivati circa 2.600 esponenti di spicco del mondo economico, politico, scientifico e sociale. Fra gli altri è intervenuto anche il premier britannico David Cameron, che giovedì 26 gennaio ha sottolineato la necessità di prendere decisioni coraggiose per rilanciare la ripresa economica nell'Unione Europea. Ecco un estratto del suo intervento. We meet today at a perilous moment for economies right across Europe.

Chiuso l'importante raduno di Davos, lunedì 30 gennaio si è svolta a Bruxelles la riunione del Consiglio europeo. Un consiglio che si è chiuso con un accordo sul nuovo patto di bilancio, il cosiddetto Fiscal Compact, che impone ai paesi europei regole comuni di rigore sui conti pubblici e con un'intesa sulla crescita e l'occupazione. Il summit ha poi portato a casa l'atteso accordo sull'ESM, il nuovo fondo salva stati permanente, che dal 1 luglio sostituirà quello provvisorio, anche se rinvia al prossimo Consiglio europeo di marzo la decisione sulle risorse a disposizione del meccanismo anticrisi. Si parla di una dotazione di 500 miliardi, come vorrebbe la Germania, o almeno 750, come chiedono l'Italia e altri paesi, la Commissione europea e il Fondo monetario internazionale. Ma se su quest'ultimo punto si è registrata l'unanimità dei 27, uguale cosa non si può dire per il patto di bilancio e crescita. Il nuovo Fiscal Compact è stato sottoscritto da 25 paesi membri, con Gran Bretagna e Repubblica Ceca rimasti fuori. Il Consiglio, inoltre, non poteva non toccare la soluzione della crisi della Grecia, con la Germania che ha di fatto proposto il commissariamento di Atene, almeno per quello che riguarda la gestione del bilancio, dividendo il fronte europeo tra chi si trova d'accordo con la proposta e chi la definisce inaccettabile. Il vertice di Bruxelles è stato preceduto da un incontro trilaterale Monti-Merkel-Sarkozy, durato circa 30 minuti. Sentiamo sui contenuti di questo incontro e sulle idee che ne sono venute fuori Gerardo Pelosi delle Sole 24 Ore. Definirlo vertice mi sembra nobilitarlo un po' troppo, perché è una riunione che non può ritenersi sostitutiva di quella prevista per il 20 gennaio a Roma, che era stata fissata a Strasburgo, cioè l'inizio di quel formato A3 nella quale per la prima volta, credo dalla nascita dell'Europa, l'Italia era stata formalmente associata a un simile esercizio di, come dire, di vagone di testa dell'Europa. Poco più di mezz'ora, nel corso del quale non era una sede negoziale, quello ovviamente, ma soltanto uno scambio di idee, si è parlato ovviamente del Fiscal Compact, ma soprattutto di crescita e occupazione. Ed in questa fase Monti ha proposto che i 10 paesi non euro vengano in qualche modo associati ai 17 dell'Eurogruppo, dell'Eurozona, quando si parli di crescita e competitività, ma facendo una differenza tra quei paesi che non vogliono entrare nell'euro per una loro scelta politica, storica, come il Regno Unito, e quelli che ancora non possono, perché non ci sono le condizioni oggettive per un ingresso nell'euro, come la Polonia. Ed era proprio la Polonia che aveva posto come condizione la partecipazione ad almeno uno dei due eurogruppi che si svolgono annualmente per dare il disco verde al Fiscal Compact che dovrebbe essere varato questa sera. Allora, Gerardo, sul Fiscal Compact chiariamo di nuovo che nonostante il nome non riguarda una armonizzazione fiscale, che pure ci vorrebbe soprattutto per le imprese in Europa, ma riguarda in primo luogo dei nuovi vincoli di bilancio per i paesi e quindi riguarda le rassicurazioni che la Germania chiede. È un trattato internazionale fuori dai trattati europei, è un po' come se fosse Schengen, no? Perché è a 26, il Regno Unito è soltanto un osservatore, quindi da un punto di vista giuridico, di diritto internazionale, è un trattato internazionale che contiene le stesse identiche cose del six pack, cioè tutte quelle misure per, come dire, rendere severa la disciplina di bilancio, che erano già state varate e nel quale per esempio si era speso moltissimo l'ex ministro dell'economia Tremonti, quando si trattò appunto di definire i fattori, cosiddetti altri fattori rilevanti, per non far pesare troppo il 120% del debito dell'Italia. Quindi voglio dire, è la trasposizione di quelle regole che erano già previste dall'Europa in una forma solenne, che è quella voluta dalla Germania. Dire ovviamente che questo è quello che voleva la Germania è la prima fase. Adesso che la Germania è accontentata, diceva una portavoce, la portavoce di Monti, la Elisabetta Olivi, ecco, adesso c'è stato la fase 1, cioè il salva Europa, adesso parte la fase 2, e cioè il cresce Europa, e quindi misure sulla crescita, sull'occupazione, come reindirizzare i 20 miliardi di fondi europei 2007-2013 per l'occupazione giovanile, come rendere più stringenti l'impegno dei capi di Stato e di Governo per quanto riguarda il rapporto dell'occupazione. C'è adesso un rapporto annuale, non basta, occorre fare di più per l'occupazione. E per questa settimana con Economia in Europa è tutto. Economia in Europa. In collaborazione con Euronet.